Vialuce. E andata via la luce. È andata via la luce. Eh? È andata via la luce. Ah no, ma poi dormì. Ma è andata via la luce. Ma vuole farti diventare matta. Ah papà, poi andata a dormì. Che bombate, no? Ah papà, non si può andare avanti così, eh? Ma fatti diventare matta, però. Che succede? Oh. Oh, ma papà, dove vai? Oh. Papà, è l'una di notte, poi andata a dormì. Ma devi bombardarlo. No, ne papà, non bombardarlo, dai. Va a dormire, su. Basta, bravo. Ma che se sente male, papà? Basta! Che male, ma fate dormire. Male. Oh, no, no, dove vai? No, dormi però, eh. Hai capito? Dormi. Adesso, se mi dici che non bombardarlo. No, non bombardarlo. Dai. Mannaggia. Da bravo. Ecco fatto. Ma che ci hai fatto? Annare, va a dormire pure te. Dormimo. Leo, non gliela faccio più. Caga mica, ci mette pure te, eh. Candido, ha data l'acqua ai pomidori? Io ho data, io ho data. Come fate a dormire? E dormi, chi ti ha detto io? Torna da uno. Candido. Candido. Che vuoi, no? È tornata la luce, c'ha ragione tuo padre, non bombardano. No, ma che te frega se è tornata la luce, è l'una di notte. Che dici, Candido? Io vado a dire a tuo padre che è tornata la luce. Ah no, è l'una, devi andare a dormire, hai capito? Dai. È una parola, mo mi sono svegliato. Bello del nonno. Ma che state svegli? Mazza del caldo che fa. Che? Era bianca. Tua sorella bianca. Vuoi bere? Dammene un goccetto, va. Ma no, non lo so che mica lo fai apposta, però così. C'è sta mamma che è avvelenata. E c'ha pure ragione, buona donna, la notte si deve dormire, no? E almeno se ti svegli, cerca di restare in camera tua, eh? Non mi è mai piaciuto l'acqua. Mettete a legge, fai qualcosa. Mi sei solo chiocchiato. Vabbè, allora secondo te devo stare tutti quanti svegli. Ma no, no. Voi dormite, dormite, non vi preoccupate. Io dico per te. Dai e dai, e poi a fini che ti rispediscono da Ziromolo a Rieti. No, io da Roma non ci vado, da quel burino. Tutti vanno a venire a Roma, e lui romano romano, che se va a sposare con qua a burina. E allora stai buono e dormi, dai. Ma non è sabato? No, ma no, è mercoledì. Ah, è mercoledì? Ma perché? Se era sabato? Se era sabato, domani si lavorava. E beh, allora? Mi potevi accompagnare a trovare la nonna. Ma ci siamo andati domenica, no? Ma mi sono scordato di dire una cosa. Ma guarda che gli apo di pure da casa, eh? Perché mi ci accompagni domenica? Domenica non posso, vado a pesca. Candido. E se io chiedo a tuo padre? Domenica non si può, non ti ricordi chi vi a pranzo? Chi? L'innamorato del Ziano. Sta mignotta. Come sta mignotta? C'ha 48 anni e poi domanda 18. È una mignotta. L'altro giorno si stava a pittare pure la buca. Sa vedeva però nonno. Capito, ma ci avrà diritto pure lei. Mignotta! No? Ma te vuoi sta zitto? Aspettato che moriva però nonna. Potevo aspettare un altro po' che morivo pure io. Ma no, e chi t'ammazza a te? E poi chi sarebbe questo? Ma questo chi? Questo che deve venire domenica. Non lo so, so solo che vedo pure lui. E quant'anni ci avrebbe? Non lo so, ma no, ma che ne so io? E che mestiere farebbe? No, so solo che vedo, ma t'ho detto. Fa il vedo, vuoi mestiere, va bene. Ma però dormiva. Mignotta! Ma no, no! La luce! Speriamo che la porta buona, no? Buonanotte. No, no, no, no, no. Dai, zia, non fa così, Bevi un po' d'acqua. Oh, ma ne sta a Fontana dei Trevi. Non gli devi dare retta, su. Candido, raga, cadi io con la zia che non ci deve far caso. Non ci fa caso, zia. Ma lo sai com'è, no, zia, quello strilla, strilla. Ma ci avrò diritto a campare pure io. Ma certo, zia, vedrai che sta giusta tutto. Sempre sola. Stai a scherzare o stai a parlare sul serio? Ma stai del fio? No, dico, qua ve siete tutti ammattiti. Dì qualcosa. Che gli devo dire? Che cazzo gli devo dire? Ma non la vedi pure mamma, poi si innervosisce. E a me? E a me me ne vede nessuno? Alle 5, cocche, alle 5 di mattina, marzo. Tiè, se fa per 10, tiè, è l'una e mezza. Ci andate voi fra un'ora e mezza a pastare la carce e a collarvi i mattoni? Ci andate voi? E tu mi vieni a dirgli qualcosa? Sono 10 anni che gli sto a dire qualcosa, che te sto a dire qualcosa. E tu, Annalè, perché piangi? Tu mi devi spiegare perché piangi? Tanto te lo dirà fino a che campa. E tu ogni volta ti metti a piangere. E Annalè no, no, mica si può fare, Qua bisogna che ogni tanto si riposare. Per carità, e al mazzo suo fanno tutti, non dico di no, ma proprio per questo bisogna riposarsi. Mangiamo poco, almeno dormire. Ma sono 18 anni che sto da sola! Ti saluto, Annalè! Massa che nottata, si è messo pure a piovere. E tu dove sei andato? Un mutande col cuscino? Sono andato a ballare in giardino. Dove sei andata, papà? Papà, vedi quello, Quello è il letto mio. E lo vedi che ora è? E se vuoi che venga a lavorare con te la mattina, bisogna che dorma. Troviamo una soluzione. Vabbè, ditemi voi, forza. Faccio quello che mi dite, ditemi voi. Chiudiamo la chiave, no? De notte, dite. Ma allora ci senti? Ci abbiamo già provato. Due sabati fa, quando tu stavi da Ziromolo, è peggio. Un altro po' sfornava la porta. È vero, cara, guarda che ha fatto un macello. Vabbè, insomma, troviamo una soluzione. Io non posso star qua con la gente che s'alza, via beve, sia che piange. Ce l'avete tutti con me! Sì, vabbè, vabbè. Ma non vi preoccupate, Marcello mi sposa e io me ne vado da sta coppia di matti! Pure! Non vi preoccupate, ve lo tolgo il disturbo! E sarebbe ora! Marcello mi sposa! Ma io prego, prego, sì, io prego! Che mamma non diceva mica davvero. Non dicevo davvero. E chiedilo a tuo padre se dicevo davvero. Te ne accorgerai domenica se dicevo davvero. So 5 mesi che me sto a preparare. Io tiro il collo alla gallina domenica. Ma come, proprio domenica che devo andare a pesca? Domenica qui a casa mia, altro che all'osteria. Fettuccine, stracciatella. Ma fettuccine, ma che mo vado a poco? Come un re lo tratto, basta che te si porta via. Tu non mi hai mai potuto vedere. Ma io mi imbriaco domenica. Ma dicevi davvero, in fettuccina, stracciatella. Imbriaco. Ma che sta cacciando? Ma che c'è un alzarsi? Hai visto? L'hanno detto che bombardavano! Adesso bombardano, adesso! Prima non bombardavano! In compenso ci ha pensato tu a svegliarci tutti, Io, ma che sta a dire? Sì, so io che sto a dire. Dai, forza, muovemose! Che andiamo, dentro la buca? Sì, sì. Sarà il solito farsi allarme, Roma non ha bombato! Davvero, saranno i soliti fatti di castelli, a Roma non ci vengono! No, a Roma non ci vengono! E stamattina invece glielo del chiccherone! Oh. Dai, muovete, capito? Dai! Oh, beh, tu che fai? Io non vengo. E allora? Magari a volta buona che riesca a dormire. Se ti sa che c'è di nuovo, ma avete proprio stufato, fa come te pare. No, avevo detto io che bombardavano. Candido, alzati che sono le 5, dai. Andiamo su. Candido, alzati, dai. Su che stanno a dare la sciacquata, muovite. Candido, te vuoi svegliare? T'ho detto sono le 5, no? Oh. Dai, tirate su che mi fido. Dai, che te li metti giù, guarda là. Alto, grosso e frescone, dai, muovite. Buongiorno Camilla. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Agami, hai visto i pomodori che ci avevo? Eh? Agami, hai visto quanto stanno a venire bene? Dice sei il padrone di casa. Si era la serva che mi dà bloccarci un bocca. La maccia l'ha messa due patate in più. Ci ho messo quelle che c'erano. Ma ti avevo detto di non metterci le cipolle. Ma tuo padre gli ci piacciono. Io non conto niente, allora. Gli piacciono a lui, ma non piace pure a me. E beh, ringrazia il cielo che ci avevamo l'orto. Ah sì, e quando ho ringraziato, sempre le cipolle mi tocca mangiarle. A proposito, Annaretto, non si è fatto dare il messaggero? Ah sì, mi stava scordando. Ah papà, e stasera ci posso andare a sentire la radio in parrocchia? A che ora? Alle 7. 8:30 a casa, eh? Alle 9. Con chi ce vai? Con l'amica mia, con chi ci devo andare? Camille, tu che dici? Che dovevamo fare, assemblea? Oh, e te svegli sempre di traverso, eh? Pronta la colazione? Mi sveglio sempre di traverso, eh? Leo, mi ha dato pure la domenica del Corriere. Ah, è pronto sì o no? Ma è in altri 5 minuti, no? Allora ci posso andare? Tiè, questi li dai a Candido, tiè. Ma che vi serve pure la domenica? No, ci viene manco bene. Allora ci posso andare? Ma dove? In parrocchia, papà. Vacce, via, vacce. Oh, io non ci riesco. Ma come ci riesci? No, non ci riesco. Ma è una fregnaccia, guardami a me. Allora, pieghi qui, ripieghi qua. Guarda che ti sbagli. Ecco, mo mi devi imparare pure come se fa un cappello di carta. Lo devi mettere doppio. Poi ripieghi qui, pieghi le punte, la fregnaccia. Ma che è il cappello quello? Gli date da magnà? giovani d'oggi sanno fa più un cazzo. Dai, su, fammi vedere. Ma fammo te, ma no, te devi imparare. Che rottura di coglioni. Dai, dai, dai, bravo, su. Allora, così, bravo. Piano, piano, lì, piano, così. Così, no, e così hai piegato troppo presto, poi dopo te sta largo, no? A Candido, e quello che impari con sto maestro? Gli date da magnà, per favore! Vedete? Ci ha messo già lo zucchero. Già ce l'avevo messo. Mi piace più dolce. Ma papà, è già un miracolo se ne hanno trovati in pardetti del zucchero. Tu lo magnà tutto te? Ma proprio te impari, ma ti vergogni. Tu madre se ne va a gli occhi di pane dalla bocca per farti mangiare. Ah, andiamo, cacchi, cappello tuo, fini il cantiere, dai. Mi detta Candido, devo far nonno il cappello come si deve. Yeah. Oh, noi andiamo, ci vediamo stasera. Buona giornata. Beh, io vado in fontana a lavare i panni. Ti aiuto. Prima da Nampineta, rifaletti e lava i piatti. Bianca. No? Mi ci metti un altro cucchiaino di zucchero? Mezzo. Meglio di niente. Però non guardare, me lo prometti? Come no? Va. Che qua fate da bacetto a nonno? Gli fai un piacere a nonno? Che piacere? Si saranno asciugate le pezze da piedi. Ma come no? Ci ho messo un mese a fatti i pedalini dell'ama, perché non te li metti? Ma che te devo dire? Non mi ce li trovo, sono belli per carità, però se saranno asciugate, che dici? Che con l'acqua che ha fatto stanotte sarà difficile. Mm. Sto bagnate. Ah no, ma che stai a fa'? Con sti ginocchi ogni tanto mi devo piegarsi, no? Cadazza e col cucchiaio. Mi ci sono trovato. Hai guardato? Io? Ma no, ti sei fregato il zucchero. E il zucchero? Mamma mia, quanto ce l'hai messo? A me mi piace dolce. Ah, ti ho detto che non guardavi. Mi pare di essere carcerato qua dentro. Carcerato dentro casa mia. Ah no, ma quanto ce l'hai messo? Tu sei quasi finito. Mo la senti a mamma, te ci scherzi, ma vedrai. Bianca? Eh? Ha detto tua madre che prima la danna Pineta devi passare dal suo robusto a prendere il grasso per sapone. Pure il grasso? Devo rifare i letti, devo lavare i piatti. E come gli devo dire al suo Augusto? Come gli devi dire? Datemi il grasso per sapone. Oh, mi fate sempre arrivare per ultima. Io c'avevo appuntamento alle 9. Pigliatela con tua madre. Ma poi se te sbrighi gliela fai. Ti preoccupare, Bianca, c'è va il nonno dal suo Augusto. Papà, te non te lo dà dopo l'ultima volta. State zitta, potrei essere un mo' d'acqua la sanguisuga. Papà, te vai lì per litiga. E a noi ci serve il sapone. Ho detto, state zitta. Oh, no, ce vado io. Oh, no, ce vado io. Tu vai a finire da camica due. Oh, io me l'avevo detto, eh. Ah no, guarda che se non torni col grasso per sapone, poi ce vado di mezzo io, eh? Non ti preoccupare, Bianca, queste sono cose d'uomini. Timido. Ma poi scusa, ti ha detto che ti vuole sposare, no? E allora? Sì, ma non è a di che dice, sai, ha fatta la mossa e io gli ho detto, oh, ma che stai a fare? No, Agami, non ci ha mai nemmanco provato, manco un bacetto sulla guancia, che ne so. Vabbè, ma mica un giovinotto, vuol dire che è una persona seria, dovresti essere contenta. Sì, sì, so contenta. Ma te l'hai mai conosciuto un barbiere timido? No, perché io già mi immagino la prima notte. Tanto pensa a farti sposare, poi la prima notte c'è tempo. Ma poi dico, qualche cosa ti ricorderai, no? Agami, e sono 18 anni, e mica un giorno. Sì, qualcosa mi ricordo, ma non vorrei fare la parte della stupida, non sono mica una ragazzina, eh? Te pensa a farti sposare, poi te lo farò io. Dici davvero, Agami? Mi impari te? Che fatte sposare? E non è che me puoi dire qualcosa subito, non lo so, dammi qualche consiglio. Che vuoi sapere? Dico, ci sarà una festa, no? Verrà un po' di gente, però insomma dico, poi verrà il momento che io e lui resteremo da soli. E com'è? Allora? Dico, sì, se questo seguita fa finta di niente, e io che faccio, mi metto a dormire? Ma vi metterete a dormire insieme, no? Spero di sì, almeno questo. E tu allora, Annare? Dici davvero che mi devo fa così? Poi me lo fai sapere se continuo a far finta di niente. Ma non sarà un po' troppo? None! Ma perché quando Leone fa finta di niente, degli... Prima, Annare, prima. Ma non lo vedi come campamo? C'avevo giusto il tempo di pensare Famo finta di niente tutte e due. Ma voi siete sposati da 20 anni. Noi dobbiamo ancora cominciare, questo già fa finta di niente. Correte! Stanno arrestando nonno, correte! Papà, ma che ha fatto? Ma ha dato un osso di prosciutto in testa al suor Augusto. Lo sapevo io. Andiamo, zia, andiamo, ma... Non ci penso proprio, andate voi se volete, io basta, mi sono stufata. Ma gli ha fatto male? Non lo so, hanno chiamato la milizia. Oddio, ho capito il leone. No, ce n'è più di suora Rosa. Allora andiamo, dai. Se potessimo far sonno stanotte. Dove sta papà? Dice cosa, ma che sta? Dove sta? Dal solo Augusto. Ma che è successo? Ha detto Bianca che gli ha dato un osso di prosciutto in testa. Ha fatto peggio. Ma che c'è andato a fare dal solo Augusto? A Pier Grasso per sapone. Ma che c'è per il cervello? Perché ci avete mannato? Ma come non ce lo sapete? A saperlo da voi che ci avevo mannato. Ma senti questa, andiamo su. Ha fatto bene papà, gli sta bene a quel pagliaccio. Bianca, dove sta il nonno? Oh, stanno a portare il commissariato! Oh, beh, ne hai sentito, ma? Oh, stanno a portare il commissariato! Gli ha dato una torturata! Ma oh, guarda, dovevi vedere come strillavano tutte e due! E il solo Augusto c'ha un taglio qui! Assassino! Me voleva ammazzare! E il nonno che strillava, ma pure più di lui, ladro, figlio della mignotta! Ma dopo è arrivata la sua assunta, che si è messa a strillare pure lei. Oh, il sangue! Me lo voleva ammazzare, il paro gusto mio! Ma immagino che sceneggiata che ha fatto qua, sono amica! Ma lo stanno proprio a restare! No, peride! Papà, Candido e zia stanno andando al commissariato pure loro! Non ce voglio crede! E guarda che stavolta nonno ci aveva ragione, eh! E che te sto di no? E che no, conosco il San Augusto per presta sordi a strozzo? Allora perché stai a ride? Ma almeno stanotte se dorme! Cioè dovevo andare io? Ma la colpa è mia, eh! E poi la cosa più grave è che si è messo a baccagliare pure coi soldati della milizia! Vagarozzi e figli della mignotta, gli ha detto! Si è messo a strillare e li denunciava che stavano d'accordo con quel cravattaro, insomma, che ce magnavano pure loro! Vabbè, ma stavolta c'ha ragione davvero, però! E tu so di... Vabbè, ma la gente che diceva? Ma stavano tutti con nonno, che gli batteva in mano! Bravo, gli dicevano, bravo, Sor Carlo! Oh. E beh? Ci hanno cacciato via, hanno fatto rimanere solo papà. Madonna mia! Stavolta se mette male. Perché? Me vuoi dire che ti dispiace? E mi dispiace sì. Guarda che sei te che non vedi l'ora che se levamo tutti di torno. Ma non ti preoccupate a me. Io me sposo. Me sposo e vado a fare la signora. Sarà. Che vuoi di? Sarà, voglio di sarà. Tu dici vado a fare la signora e io dico sarà. E mo t'ho capito a te, Camille. Te sei invidiosa. Mi pareva strano prima che facevi tutta la gatta morta. Te imparo io, te dico io come devi da fa. E se tu imparazzi? O so io, Bia, o so io. Te dici che te imbriachi, che non vedi l'ora che me ne vado. Ma la verità è che te sei invidiosa, Camille. Ma te chi dovrei essere invidiosa? Del barbiere che fa finta di niente. Che fa il barbiere? Ah, te, ma sei proprio una serpe, eh? Va fa, signora. No, va fa, è finita. Va fa, signora col barbiere, beata te. La signora, Camilla, signora! Non c'è sta niente da mangiare, ma... Quello ti mette a scopare i capelli a bottega. Te piacerebbe? C'è il maschio per scopare i capelli a bottega e c'ha pure l'aiutante, Marcello. E allora, bella mia, non c'è proprio niente da fare. E mi dispiace. Che vuoi di? Che sinuscopi manca a bottega! Ma ti vergogni! Ti vergogni a parlare così davanti a queste due creature! Te saluto, sì! Ma sai che ti dico? Lo sai che ti dico? Io mi vado a comprare un bernastro rosso per domenica! Ce posso venire pure io, sì! Non lo so, parla con tua madre! Ce posso andare, ma? Andate, sceglio bene, mi raccomando! Un bernastro rosso da signora! Non te preoccupare! E chi tu paga il nastro, il povero Pietro? Ma devo che sta zitta, ma... Dai, tienilo fuori, il fiero! Andiamo sì, dai, Cioè, se compra il nastro con la pensione del povero Pietro, la vedova col nastro rosso! Per grasso del cuore te devi mangiare! E dai, zì, andiamo! Sta zoccola! Che hai detto? Ma che vuoi? A ridillo si cerco rato. Va, va, vatti a comprare un nastrino. Avete sentito? Avete sentito, sì? Ma che c'è, la coda di paglia? Ma ha detto zoccola! Ma ha detto zoccola! Ma sei riuscita, eh? Ammazzate, ma... Che fa proprio a starte zitta, eh? Ma io non ti capisco mica, te dici che vedi l'ora che si sposa, che se ne va, e invece è giù a stuzzicarla, ma lascia in pace, no? Ma so io che a stuzzicarla. Sei te. Ma non l'hai sentita, si mette a fare la fanatica con me. Ma a te ti piace stuzzicare, gente? Te non ci sai sta, paona, tranquilla. E il padre la chiama mignotta e io voglio posso di zoccola. Ah, chiama un po' come te pare. Ma... Che per caso... E per caso te c'ha qualche sordo da parte? Perché? No, niente, era per sapere. Nel dinderolo qualche cosetta ci sarà. Qualche cosetta quanto? Ma che ne so, il dinderolo, ma perché? Ma no, niente. Insomma, mo vuoi dire sì o no? Ma te giurano che non dici niente a papà, però. Ma perché? Mo giuri sì o no? Vabbè, dimmi. Ah, vuoi giura? Vabbè, giuro. Mettete a sedere allora, dai. Ma te c'è presente compagnia cantando? Beh, il padre di compagnia cantando c'ha un furgoncino, di quelli scoperti con tre rode. Insomma, compagnia cantando mi ha proposto di fare società. E allora? E beh, per fare i soldi, amà. Abbiamo fatto un calcolo. Nel furgoncino, in piedi stretti stretti, ci entrano 20-25 cristiani. Noi gli famo pagare tanto al chilometro. Bastano 5 corse al giorno, andata e ritorno, e già vado a guadagnare il doppio di una settimana da manovale. Che dici, ma? E chi lo guiderebbe il furgoncino? Compagnia cantando, io riscoto. E è buono? E beh, certo che è buona, ma... Oh, e siete figli, provice! Vabbè, per questo prima ti ho chiesto quanti soldi. E che ci devi da fare? Hai detto che te riscoti? Vabbè, dopo, prima tocca cambiare rode, sennò scusa, che società è? Se ci metto una lira. E quanto costano ste rode? Vabbè, un po' costano. E perché non glielo dire a tuo padre? Ma che sei matta, ma? Ma che non lo conosci, papà? Quello gli abbia uno sturbo solo a pensarci. Vabbè, ma se può fare, non c'è vuole la licenza. Ma che licenza? Lo fanno tutti. Stavolta ti è andata bene, ma mo basta. Ci ho rimesso pure mezza giornata. Se pensavate che ero incoglionito, eh? Era troppo bello per essere vero. Mamma, eh? Ah no, e allora, rincontaci. Te pensavi che ero incoglionito? Beh... Hanno arrestato il sor Augusto. Per Dio della mignotta. Ma dici davvero? No, perite. In cantina gli hanno trovato ogni ben di Dio. Farina, sale, pasta, zucchero, di tutto. Sì, capirai che hanno scoperto. Non mi dica che sono... E tu che dici? Sennò quando gliela facevano la perquisizione non si sono proprio potuti rifiutare. Mortacci su, eh. Mo so cazzi nostri. E chi lo regge più? Ad avete per strada, chi gli voleva offrire il vino è diventato un eroe. Aleo, ma è tutto vero? Capito, sì. Ammazza! Ma porca. Avanti. Buongiorno. Ciao, re. Ciao, re. Passavo da ste parti, son io. Volevo complimentarmi con Sor Carlo. Oh, non si dice altro, un giro. Sì, mettiteci pure te, Aremo. Ma è stato gagliardo, son io. Date retta a me, io c'ero. Stavo davanti a bottega, no, con Gigi, Franchino, Roberto e compagnia cantando. Stavamo là. A un certo punto sentimo strilla. Esce il sor Augusto che emana un fronte. Tutto sangue. Dietro Sor Carlo, con l'osso de prosciutto che gli strillava. A figlio de nami. Mignotta! Lo sapevo, re. Lo sapevo. Ah, vabbè, allora se ce lo sapete, sapete pure il lupo del commissario, del sor Augusto e compagnia cantante. Basta, re, basta. Sapevo tutto. Allora... Ricotta, arrivo, per qua, visto che... Ci vediamo dopo, eh? Ciao, ci vediamo dopo. Dai. Bianca, che ce l'hai stasera a parrocchia? Può essere. Ma ce dovevi andare con amiche tue? Sor Leo, noi il sabato stiamo tutti lì a sentire la radio, no? Uomini, donne e compagnia cantando. No, più stai e più peggiore, Are. Mo ogni frase ce lo devi piazzare, sto compagnia cantando. Mica lo faccio apposta. Oh, Arrigo, allora se vediamo dopo, sì, eh. Se vediamo più tardi. Buona giornata, eh? Ma che è successo? Non ti preoccupare, se vediamo dopo. Ciao, ciao, eh. A dopo, ciao. A te te frega proprio niente che ti chiamino Ricotta, eh? Non c'è il minimo d'amor proprio. E te devo ringraziare. grazie a te te devo. Chi mi ci ha chiamato, Candido? Ma come ti è venuto in mente? Te l'ho spiegato 200 volte. Il giorno che tua madre ha sgravato, nevicava. Ah, e si grandinava come mi chiamava. A me non mi guarda proprio, mi piaceva l'amore, figurati. Perché invece tua sorella non si chiama Bianca? Ah, mamma, ogni volta che sgravavi te nevicava. Né Bianca mi sta bene. Lo sai perché ti chiamano Ricotta? Eh? Lo vuoi sapere? Non è per nome, no? Non è per Candido. È perché sei mollaccione, ecco perché. E qua non ci diventerai mai prima cucchiara. Ma non vi dà la lotteria. Ci vedemmo più tardi. So proprio cazzi nostri. Mia, che dici, mi metto sto nastro? Vorrei che Marcello, non lo so, magari mi piave una poco seria, eh. Oh, ma che c'è stamattina? Non parli, stai zitta, te fissi, ma che c'hai? Niente, sì, niente. Allora, che dici, me lo metto o non me lo metto? Che? Ernastro, Bia, Ernastro! Ah, ma come non te lo metti? Sì, te lo sei comprato apposta. Sì, però non vorrei che Marcello... Che ne so, se farà una cattiva idea. No, sì, ma vedrai che ci stai proprio caruccia. Proviamo un po'. Che... Zia? Niente. Ma zia? E te da quanto tempo è che fai l'amore con Marcello? Sette, otto mesi. E quando ti ha chiesto un defa, insomma, tu hai capito, no? No che non ho capito. Ma insomma, sì, te l'avrà chiesto, no, di fa qualcosa. Abbia, ma che vuoi sapere? Tu che gli hai detto che hai fatto? Abbia, non è che per caso tua madre... No, zì, non gli hai detto niente che te l'ho chiesto, eh? Ah, ecco. Allora parliamo in generale. Ma non è che niente c'è qualche cascamorto che te vi ha preso? Oh, ma che dici, sì. Ma perché? Sei caruccia, sei intelligente. Non c'è niente di male, eh? È normale, Bia. E mi sa che ho capito pure chi è. E se è chi dico io, dico che potresti trovare pure de meglio. Sì, ma come devi ammettere? Comunque, se vuoi un consiglio, stacci attenta, eh? Che quelli sono tipi sverti. Puro troppo sverti. E che l'omini, sto troppo sverti, sono morti di sonno. L'ideale sarebbe trovare una via di mezzo. Te hai trovato quello troppo sverto. Oddio, forse è meglio uno troppo sverto che un altro morto di sonno. Ma comunque stacci attenta. Sì, trovi uno, insomma, sverto, come dici te, che te chiede. E te che devi da pazzi? Gli devi far tirare il collo finché te sposa. E se non gliela fai? Ti non gliela fai! Gliela fai! Se non mi ha aiutato a piare la gallina, il barbiere oggi non magna! T'avevo detto di ammazzarla ieri sera! No, non più te puzza! E te, Bia, invece te sta perdendo tempo dietro i nastrini di tua zia, comincia a fare la sfoglia! Vabbè, quante ova ce devo mettere? Che ova? La sfoglia la famo senza, l'ova servono per la stracciatella! Oh, ma non avevi detto che facevamo le fettuccine? O famo le fettuccine o famo la stracciatella! Ma che figura mi fai fare? Per pranzo così ci vuole la stracciatella e le fettuccine all'ovo, come Cristo comanda. Cristo comanda per non far miracolo dell'ova, le paghi te? Sì signora, le pago io. Con i soldi del povero mio. Ma pure l'angine che mi... Ho già il lare. Vabbè. Com'è? Già siete tornati? N'era proprio aria. Che avete preso? Ma se ti dico che n'era aria, ha fatto troppa acqua stanotte. Mamma sia, ando stanno. Che avete preso? Ma che oggi? Questo non parla, te non ci senti. Boh. C'avete fame? Ve posso preparare pane, olio e sale, ve va? No, grazie, Bia. Io lo voglio. Te lo voglia? Sì, Bia, ti ho detto che lo voglio. Ma stavo a preparare la sfoglia. Scusami, adesso sto tutta sotto sopra. Oh, ma che hai bevuto, Bia? È la prima volta che ti vede sotto sopra. Non ti preoccupare, Bia. Stai bene lo stesso. Grazie, re. E quando cominciate col furgoncino? Ma che gliel'ha detto? Ma vaffanculo, va. Ma perché? Ma che male c'è? Ah, ma perché? Che non me lo doveva dire? Per fortuna che era un segreto. Ci mancava che mettevamo annuncio sul messaggero. Domenica. Cominciamo domenica. E per le rode come fate? Pure. In qualche modo farlo. Ma vedete diela a papà. Sempre che non gliel'hai già detto. Ah, oh, ma perché m'hai preso? Insomma, se fosse sapendo, sono andati tutti. E mamma sta con zia. Sono corsa a pressare, gallina è scappata. Ecco fatto. E papà e nonno? Ma papà è andato a riparare il muretto alla sala rosa. Nonno ancora non si è visto. Mi sa che sta ancora a dormire. Ma come, sei sempre il primo. Ma mamma, ubriaco come era ieri sera. Ma dai, concetto di vino, bianco. Aga, tu già sei tornato. Giorno, Sor Leo. Ciao, re. Ciao, papà. Pazza, pancato fuori sto muretto, poi non finisce più. Oh, ecco, va, grazie. E tua madre? Mamma sta con zia. Non ha ancora appresso la gallina. Ancora appresso la gallina? È scappata. E da che parte sono andate? Ma dipende dalla gallina. Ma come sarebbe dipende da che... Mannaggia. Aspetta, vengo pure io, ti sei fregato il pane, papà. Fermo, Rebbo. Che c'è? Che intenzioni c'hai? Ma come che intenzioni c'hai? Oh, sta buono, l'ho detto, Che intenzioni c'hai? Ma come, Bia? Ce lo sai che ti voglio bene, no? Non basta. Ma come non basta? No. Ma perché? Mi abbassa la voce che si sveglia, nonno. Te sei un mascalzone, ecco che sei. Ma che stai a dire? Mi sono fidata. De un mascalzone mi sono fidata. Ma che stai a dire? Te ci vuoi solo divertire con me. Io te voglio bene. Mascalzone. Se mi volevi bene, ieri sera... te sei svelto. E io sono stupida. Ma è successo. È successo perché se volemo bene. E allora se mi vuoi bene, devi fare il dovere tuo. E quale? Me devi sposare. Ma... ecco, vedi, tutto dove è una scherzone! Zitta, che si sveglia sul carro, ma che ti ho detto di no? E manco di sì, però! Ma che te pensi, che è una passeggiata, uno scherzo e compagnia cantando? Ma ieri sera che era una passeggiata, uno scherzo e compagnia cantando! Non c'ho una lira, Bia. Esci, e non te fa più vedere. Ma perché? Te pensi che è facile? Te pensi che si vado da tuo padre e gli dico, ah, Sor Leo, mi vorrei sposare con vostra figlia? Che pensi che mi risponde? Se metta ride tuo padre con tua madre, tua sorella, tua zia e compagnia cantante. Ehi, e se era facile però, Dammi tempo. Mo vediamo come va quel furgoncino. E si mi ha messo incinta? Per la volta. Vabbè, perché non può essere? Tutto può essere, però ci direbbe proprio pedalino. E se ci ha detto pedalino? Ma che te credi, Abbia? Io sono uomo d'onore. Io voglio proprio vedere. Io te voglio bene. Oh, fermati. Guarda che stanno tornando la sera. Non lo facciamo tutta questa cara. La roba è mia. Certo, corri da qua. Corri da qua. Buongiorno a tutti. Ma che è successo? Io non me la mangio. Voi fate come vi pare. Ma non ce la facciamo mica, cap. Vedevi l'ora di mangiartela. Ci ho ripensato, beh. Beh, è la mo' che gli damo per pranzo al barbiere. E fate? Il pranzo è che a me deve decidere. Oh, io non lo so, Vabbè, ma te devi decidere. Il pardone dovrà bollire, no? No, mi fa impressione. C'è il coraggio. Se potrebbe gli andare sola rosa, ce n'ha sette. Perché quelle che so? Non so galline. Non strillano uguale. Ma che c'entra? Quelle mica le conosciamo. Vabbè, dice che ne conosci. Famo così? Famo così. E ce vado io, tanto gli ho appena finito di riparare il muretto. Ah, oh, non la riporta a dire, il collo fallo tirare da sola rosa. E te credo che io lo tiro io. Io conosco tutte. Mi ci mancava solo la gallina stamattina, eh? Oh, a proposito, papà? Lascialo perdere, che non mi pare vero che sta ancora a dormire. Vabbè, ma è strano. Ma non te lo ricordi come è tornato ieri sera? Si non l'accompagnano. Ho capito, ma sono pure le 8:30 e si sveglia sempre alle 5. Vabbè, io vado e torno, eh. Ah, a proposito, Candido, perché mi accompagni? Così al giorno mi aiuti a portare un sacchetto di rena che mi sono scordato. Anche la domenica posso stamparci. E che ti ho chiesto mai? Andiamo, va. Accompagnare a te, vieni pure te. E andiamo. Buongiorno a tutti, eh. E la sfoglia? Ma ancora non hai cominciato? Ma te la sfoglia, dai un po'. Io vado a cogliere un po' d'insalata. Anna, e svegliate pure te, mica me devo sposare io. Datevi una mossa. Oh, sì, ma che hai fatto? Non lo so, mi sento strana. Strana come? Non lo so. Qua la gallina che strillava, ma stranito. Ma vabbè, ma dai, tanto come ne rimediamo un altro. Ma non è quello, via. È che... è come se ci avessi un presentimento. Non è che sei nervosa, ma è normale. Può essere. Ah, sì. È Remo. Eh? È Remo. Avevo capito. Ah, non ti piace? E deve piacere a te. Ah, ma a te sì, ti piace? Non dico che non mi piace, via, dico che potresti trovare pure te meglio. Guarda, a me mi pare proprio un bravo ragazzo. Sì, ma non c'ha né arte né parte. Beh, ho capito, sì, ma mo ha detto che... Sì, che chiacchiere, ha detto che chiacchiere. E chiacchiere stanno a zero, bianca mia. I fatti sono quelli che contano. Sa che proprio quello è il problema. Che vuoi di? Niente, sì, guarda, mi sa che se sta a malloppa troppo ci vuole più acqua. E se mi sbaglio? Da che? No, con Marcello, dico. Ah, perché te dovresti sbagliare? Perché è più facile sbagliasse che indovinacce. Beh, ma non perché stai a dire così, azzì? Ero così contenta stamattina. Poi mentre correva appresso qua, gallina. Non lo so. Ho ripensato a tutto, sai? Ho ripensato a Pietro. Ho ripensato a papà. A sta casa. Mi sentivo dei 20 anni quando mi sono svegliata. Ora mi sento dei 48. L'anni che c'ho è pure qualche d'uno di più. Qui si tratta da ricominciare, via. E io gliela faccio. A ricominciare. A 48 anni, eh? A cambiare casa. Abituarmi a una voce diversa e poi una voce sola, capirai, io ci sono cresciuta in mezzo alla caciara, io il silenzio non so manco che è, ma sì, poi non mi piace. Ammazza come t'ha preso brutto, oh. È proprio oggi poi, sì, ma scusa, ma non è detto che capita ai fornaci? Sono 10 minuti a piedi, sì. Guarda che sì, il silenzio non ti piace, fai presto. Possi no, ammazzarla qua, gallina! È stata la gallina! Dai, va, impastiamo, va! Che tanto si deve andare, va! Ancora non si è svegliato? Ma che? Vabbè, ma mo sarà il caso di chiamarlo. Sor Carlo? Sor Carlo, sono le 9. Oh, e se funziona, famo l'ombriaca tutte le sere! Sor Carlo? Sorca! Oh, e qui mica c'è sta! Come non c'è sta? Ma mica so quercia! Ma infatti... Te l'avevo detto, Pia! Sì, te l'avevo detto che c'avevo il presentimento! Ma quando sarà nato, stomo? Sarà nato che a farsi una passeggiata, quando vuoi che può essere nato? No, non può essere, Bia! Io mi sono svegliata alle 6 e la porta era ancora chiusa! Non è mai uscito così presto! Somma, oggi è destino che dovevo passare la giornata ancora appresso a qualcuno! Vabbè, dai, lo vado a cercare io! Lo sentivo io! Spendamola e mettiamo la bollina. Tu padre non c'è! E dove sta? E mica sta a dormire, chissà che è uscito! Mannaggia! Oh. Sì, tocca andare a cercare! Ma che cazzo di domenica, oh! Certo, quello è andato al verano sicuro. Come al verano? L'altro giorno mi ha chiesto se l'accompagnavo. Ma come, si ci ho portato domenica scorsa? Ha detto che se l'ha scordato di una cosa a nonna. Ma porca mignotta, io ho fatto leggere pure il manifestino, gliel'ho detto, gliel'ho spiegato che gli inglesi da un momento all'altro bombardano Ventaveo. Io bombardano. Hai letto tu il manifestino, ci hanno pure avvertiti. Apposta, ci hanno mette paura. Ma mo te pare che sarà vero, ci avvertivano. Vabbè, ma mo che famo? E che famo? Vedo che andare a cercare, che famo? Senti, fammi una cosa invece, passiamo da solo Oreste e vediamo se ci può prestare meno il triciclo. Ma porca zozza! Mo stiamo proprio a posto. Ma che fa per pranzo? Ma che ne so, Camì, che ne so? Ma che vivo io? Dai, namo, namo, forza! Andà, namo, papà, ci sta all'arme. Col culo che c'è, mo zompamo pure per aria. Non hai detto che non ci credi? Io, mio padre, devo andare a cercare. Voi andate dentro la buca. Ma papà, ma è pranzo? Chi se ne frega del pranzo, via! Finimo di preparare dentro la buca! È il destino! Questo è il destino! Grazie, Lorena. E benedetto il frutto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Madre Dei, ora nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostri, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, oremus. Benedicta tu mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sono tornati! No, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri, amen. Da ieri mattina so 40 ore. Ave Maria, grazia plena. Ma saranno rimasti bloccati. Prima c'è Castro Carlo, poi col macello che c'è stato. Sei tu, Jesus. Santa Maria. Ma è vero, non è che hanno bombardato San Lorenzo? Così dicono, ma non vi preoccupate, non sarà successo niente. Mortis nostri, amen. Ave Maria, grazia plena. Il sorlevo non è mica fesso, e manco Candido, non si fanno mica fregare. E papà? Il soccato è meno fesso di tutti Jesus. Quanti. Santa Maria, speriamo che c'hai ragione, pro nobis peccatori. Certo che c'hai ragione. Ora morti sui nostri, amen. Noi stavamo a dire rosario, ora se te vuoi fermare. Ave Maria, grazia plena. No, no, voi continuate, non vi preoccupate per me. Anzi, se non vi dispiace, io mi fermerei qui a aspettare, che dite? Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri, amen. Ave Maria, vuoi un bicchiere di vino, re? Grazia plena, Domino. No, no, grazie, grazie. Anzi, voi continuate, continuate. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri, amen. Ma mondo saranno annati sti Gesù Cristi! Santa Maria, Madre Dei! Ah, però, mammacello! Pensate che mentre mi veniva a trovare ho incontrato Sor Mario! Ave Maria, ci ha messo 8 ore da 100 celle e con la bicicletta! Dice che hanno fatto soppa per aria palazzi, strade, la gente sta tutta di fuori! Santa Maria! Pure Leone e Candido sono nati col triciclo del Zoro Oreste! Ma col triciclo! Ave Maria, grazia plena! Ma che volete mettere, il triciclo con la bicicletta? Ma più piano il triciclo, no? Santa Maria, speriamo che c'hai ragione, re, che t'ho da dire. Ma sì, non vi preoccupate. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu mulieribus. Piuttosto, Soranna, mi dispiace per pranzo, lo farete domenica prossima, eh? Santa Maria, se Dio vuole, lo famo domenica prossima, peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri, amen. Ave Maria, grazia plena. Io però te lo devo dire, anzi, a me non mi è mica piaciuto come si è comportato. Chi? E il barbiere, chi? Sei invitato, manco te presenti. E Santa Maria, e fortuna, e che gli davamo da mangiare, e poi ha mandato il maschio a avvertire. Amen. Ave Maria, grazie. E ha fatto lo sforzo. Lui al cannone rifugio, e quel ragazzino in giro per Roma sotto le bombe. E Santa Maria, proprio un bergarofolo sto barbiere tuo. E te pensa sto carciofo che intimo sverde e compagnia cantando. Amen. Avete visto che c'avevo ragione? Sono tornato! Oddio, ti ringrazio! l'avete fatta? E papà? Non l'abbiamo trovato. È già un miracolo se siamo tornati noi. Ma è vero che hanno sfornato San Lorenzo? Sfornato? Non c'è più, Are. San Lorenzo non esiste più. Io non l'ho mai vista una cosa del genere. Pareva che pioveva. Mortacci loro a grappoli venivano giù. Da cagasse sotto. Povero papà. Siamo arrivati al verano verso l'ora di pranzo. La prima cosa che abbiamo fatto siamo andati a vedere sulla tomba di vostra mamma. Papà non c'era. Allora siamo andati in giro a chiedere. Gigetto, uno dei custodi, ha detto che l'aveva visto la mattina presto mentre stava a pregare, a parlare come un matto sulla tomba. Ci siamo fatti tutto il verano in lungo e in largo. L'allarme era già smesso da un pezzo, era tutto tranquillo, la gente per strada, così abbiamo cominciato a chiedere, ai fiorai, ai marmisti. Per grattacheccare all'angolo, quello vicino all'entrata. Dice che aveva visto un vecchietto che andava verso la stazione Tiburtina. Ci siamo andati. Niente. Nel frattempo si era fatto scuro. Eravamo stracchi morti. Ci avevamo una fame. Così ci siamo fatti il filetto del baccalà all'osteria e ci siamo buttati su un giardinetto per riposarsi un po'. Ci saremmo svegliati che era luna. E siamo andati un'altra volta in giro, a cercarlo, a chiedere, ai metronotte, alle mignotte. Niente, niente. Non l'aveva visto nessuno. Nel frattempo si è fatto giorno, così mi sono detto, magari è tornato a casa. Andiamo a vedere. Siamo arrivati a Via Nazionale, verso le 11. Il cielo era pieno d'aerei. Non si vedeva il sole per quanti erano. Poi, li botti. Abbiamo fatto a tempo a buttarsi dentro al rifugio. Siamo rimasti lì dentro, ma che ne so, 3, 4, 5 ore. Quando siamo usciti fuori... casino. Un gran casino, capì? Non ci si capiva niente. Beh, adesso andiamo a dormire queste 2-3 ore. E poi ci torniamo a vedere. Vengo pure io. Non è uno spettacolo per donne. Ma è mio padre. Va come te pare. Noi alle 4:30 andiamo via. Se volete va con Parla. In 4 cerchiamo meglio. Se vieni ci fai il favore. E come no? Ci vediamo tra un po', eh? Buonanotte. Grazie, re. È dovere. Vi preparo qualcosa, ci avete fame? Io mi sposto qua. Beh, qualche cosa bisognerà mangiare stamattina. Però, Camille, qualcosa di svelto, eh? Un'acqua cotta che ci vuole novetto, Leo? Oh, è una fissazione con queste cipolle. A te te ci metto il finocchio, vabbè? Metteci il finocchio, se lo uso due è meglio. Guarda un po' il forno al cassetto, ci dovrebbero stare gocce del formaggio. Candido, noi andiamo a darsi una lavata, va? Ma perché? Ma come perché famo schifo, sembriamo due carbonari. Ma scusa, ci dobbiamo tornare fra un po'. Ma sai come riduci il lenzuolo? E certo, tanto lava tua madre. Dell'acqua proprio, eh? Andiamo qua. Povero papà. Ma che non lo conosci tuo padre? Quello ci si mette tutti all'anima. Yeah. niente. Hanno fatto zuppa per aria pure la tomba di pora mamma. Pure col cimitero sa la sorpresa. Papà non si trova. Domani proviamo all'obitorio. Adesso è meglio che se andiamo tutti a dormire. Buonanotte. Madonna mia, io non t'ho mai chiesto niente. Stavolta però stammo a sentire. Famo un patto. Se tu fai quello che sai, io poi faccio un'altra cosa. E me possino cegamme se non ti dico la verità. Vedi, io non so parlare, però se siamo capite. E ricordate che Anna mantiene sempre la parola. E perciò me la devi dare pure tu. La parola tua. E allora vedi da mantenerla. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e da Madonna. Beh, che stai a fare? Sto a bere. E voi? Caldo. Se potresti mettere... Stai più comodo. Io dormo a letto mio. E io dicevo per te finché non... Che? Io... Verano ci va sempre col vestito buono. Ma saranno da raccontare a nonna del sor Augusto, eh? Ci puoi giurare? Camì. Allora, via che metto a letto. Non se potevo fermare. Ma me lo dice a me. Non riesco più a dormire, no? Ma dove l'andiamo a cercare? Do cazzo lo potevo cercare? E se fosse andato da zio Romolo a Rieti, ma eh? No, ci ho pensato. Zio Romolo ci avrebbe fatto sapere, no? Anzi, stiamo al quinto giorno, mi toccherà avvertirlo a me, a zio Romolo. Ho capito, ma io non gliela faccio a star così, però. È meglio continuare in giro per Roma, no? Magari si è perso, ma che ne sapevo, no? E va, Candido, che te devo dire? Andiamo, forza! Vestimosi e andiamo! A forza del girato troveremo, no? Senta, volevo andare a vedere, papà! Dai, parti del casilino! Non ci siamo stati per niente! E allora passiamo prima al casilino e poi ritorno, fa un'altra passata per Portuezzi! Che fate? Andiamo a cercare il nonno. Vengo pure io. No, no, Camì, no. Il triciclo pesa. Se poi per caso lo troviamo, a ritorno chi pedala? Dai, ma via, pesi, deve darlo io, non mi preoccupate. Due minuti a soppronta. Sì, ma sbrigate, dai. Chi è? Apriti, è tornato, c'è Sorcarlo, è tornato Sorcarlo. Ma no, porca migliotta. Leo, che c'è, Leo? Nonno. Mamma, Leo, parla. Né niente, né niente, né niente. Papà! E gli ha fatto via un corpo, eppure tu che maniera c'hai? Che vado a chiamare il dottore? No, né niente, né niente! Papà! Papà mio! Non ritrovavo più la strada. Mi sono perso come un fregnone. Che mi avevo detto, eh? Ma dove vai? Lasciami, sto bene, lasciami! Papà! Te possi ammazzarte! Come un fregnone! Mettete la sete, sorca! Ci avete fame? Vi preparo qualcosa? Magari una panzanella. Vado a piedi i pomidori! Aiuto! Sì, goccio di vino, no? Sì, grazie. Grazie a tutti. Ma insomma, se non sapete che è successo? Ero andato al verano a trovare mamma tua. Sono andato via presto. Ma perché ci hai avvertiti? Ma c'era il pranzo, non volevo disturbare. Io non la capisco sta smania. Te ci avevo portato domenica scorsa. Ti avevo fatto leggere pure il manifestino dei quei figli della mignotta degli inglesi. Mi ero scordato di dirgli una cosa. Ma non gliela potevi dire da qua. Oh, ma se vuoi sapere com'è andata, fammi parlare. C'ha ragione, Leo. Vabbè, vabbè, parla, parla, che te posso. Dai, dai. Insomma, sono arrivato al verano e mi sono messo a parlare con Lucia. Si stava proprio bene. La pace. A un certo punto suona la sirena. Tutti a correre rifugio. Io ero stanco, lui mi andava da cabinare. Allora ho pensato, mo, mi butto dentro la tomba del cavaliere. Hai capito quale? Quella che sta vicino al fornetto di buona mamma. E cavalier Mancini? Sì, proprio, quello, te la ricordi, no? Che se scendono dei scalini, è come una chiesetta. Basta, mi piazzo lì. Sarà che ero stanco. Metteci pure il calo che faceva. Invece lì si stava bene, freschetto. Insomma, falla breve. Mi sono appennicato. Quando mi sono svegliato era scuro. Ma te siamo venuti a cercare il pomeriggio, la sera. T'hiamo pure chiamato, ma è possibile che non ci hai sentito? Vabbè, ma io quando dormo, dormo, eh. Insomma, mi sveglio. Esco fuori dalla chiesetta. Non c'era più nessuno. Erano andati via tutti. Vado all'uscita, avevano chiuso. E chi se ne frega, penso. Vorrei dire che dormo vicino a Lucia mia. Ritorno al fornetto, si fa un'altra chiacchierata. E sono era bello che è passato, con qua a dormire non me l'ero fatto. Mi ero portato un pezzo di pane, un pomidoro. Mi erano rimaste pure un po' di fusaglie che avevo comprato la mattina. Ho mangiato e ho riparlato con Lucia. Oh, ci ha mai parlato quando era viva? Ma ti è preso così? Insomma, poi mi sono riappendicato sui scalini, insomma. A fare. Mi sveglio, era giorno, risuona la sirena. Incomincio a sentirsi il rumore degli aeroplani, ma un rumore forte, erano tanti. Ma io stavo tranquillo. Rientro dentro la chiesetta, accendo pure il sigaro e mi acquatta il cantuccio. Figlio di Dio, scoppia il finimondo. Botti, botti da tutte le parti, botti, botti sempre più vicini. Ore e ore le botti. Poi un botto che momenti mi sfonda i recchi. La tomba del cavaliere che balla tutta. Ci siamo pensato, ecco meno che arrivo. Se staccano pezzi di marmo, uno mi ha fatto pure un fricosso. Continuano i botti. La tomba del cavaliere si riempie di polvere. Non ci si vedeva più. Mi mancava l'aria. Allora ho pensato, io qui faccio la fine del socio. Io esco. E sono uscito. Fuori non ci si vedeva niente dalla polvere. Vado verso il fornetto di buona mamma tua. Era sciompato tutto per aria. Mi pareva di essere diventato matto. Ossi, pezzi di bara, marmo, croci. Beh, e allora no? E allora ho detto, io devo trovare Lucia. Io Lucia mi ha a sto casotto, non ci lascio. E sono stato fortunato perché ci ho proprio intruppato la bara di Lucia. Si era aperta col botto e l'ho riconosciuta per via delle orecchine e della catenina d'argento. E così mi sono messa la cabeza all'ossa. Hai fatto? Mi sono messa la cabeza all'ossa. Non è che erano tutte, però l'ho fatta un bel mucchietto. Poi trovato questo sacco e sono messi dentro. No, aspetta un po' un momento, aspetta un po'. Cioè, che mi vorresti dire? Che lì dentro Madonna! Porca mignotta! E poi? Poi sono uscito dal verano. Fuori era tutto un macello. Palazzi sventrati. La gente correva, piangeva, strillava. Morti, feriti. La gente che annaspava pezzi di macerie. Allora mi sono messo a camminare. A camminare, a camminare, a camminare. Mi pareva come di sognare. Era scuro quando mi sono ritrovato vicino a Villa Triana, a Tivoli. E tutti questi giorni, niente, non mi ricordavo dove abitavo, non mi ricordavo niente, come un fegnone. Sì, ma come hai fatto? Voglio dire, che hai mangiato? Non hai dormito? Don Raffaele, un prete di Tivoli, aveva aperta la chiesa Bispollati per quelli che e boom, gli avevano sfornato casa. E mi ci sono messo pure io. Dormivamo sulle panche. La gente ci rimediava qualche cosetta da mangiare, non si stava mica male. Oggi pomeriggio, Sor Giulio, l'ho sfollato di bottino, poveraccio. Gli fa, dice, io vado alla Madonna del Riposo a trovare mia sorella. E il conto abito gli faccio. E sono venuto con lui. Poi ho incontrato compagnia cantando e mostro qua. Ah, ma mi sa che la panzanella però non si può fa'. Perché? Se so fregati i pomidori. Che? E non ce n'è rimasto nemmanco uno. Stiti della mignotta! Li pomodori via, li mortacci loro! Buongiorno a tutti. T'ho portato i mosciarelle, sei contenta? Ma sì che avevamo risolto a portare i mosciarelle, ma stiamo proprio a posto con i mosciarelle. È meglio di niente, no? Ce n'hai una pure per me? Ma certo, sorcara. Oh, bravo, dagli pure la mosciarella. Oh, a te te lo dai sempre. No? Fatemela andare che è meglio. E insomma, tutto bene? Sì, re, tutto bene. Ma te che hai fatto? Siamo andati a vedere se ci ridavano il furgoncino e compagnia cantando. Ma mi sa che non è aria. Dice che l'hanno rivisito i crucchi, li mortacci loro. E mo bisognerebbe parlare con Pizza e Fighi, che c'ha movimento con sergente tedesco. Ma mi sa che è difficile, non è vero, ca? Tocca provarci lo stesso. E se non ve lo ridanno? Qualcosa se inventeremo, via. Andate a lavorare con papà, no? Ah, ce li siamo con sta storia. Allora inventatevi qualche cosa. Perché papà da solo non gliela può fa. E le vedete ste patate? Sono l'ultime. Poi gli dice a mamma che gli erode. E vale pure per te, re? Ma certo, via, certo. Domani è l'ultimo tentativo. Si va, va, e se non va, posso pure andare a lavorare con Sor Leone e compagnia cantando. Ecco, sì, bravo. Ammazza che buciardo che sei. Hai sempre detto che a te la carcere ti faceva schifo. Ma mo c'ho una responsabilità, ca. Fa come te pare, re. Va, va, va a far manovale. Aga, e si serve. Si serve. Ma come, sono 5 anni che mi rompi i coglioni, che mi dici, e che te metti a fare, manuale, ma che stai a fare, stai a perdere tempo. Ma come, quando veniva un parrocchio mi piavi pure per culo. Oh, arriva il manuale, e giù arrivate con l'altri. E mo mi vieni a dirsi servere. Ma sei proprio un cornuto, sei. Oh, guarda, ma che stai a dire? Ma te che c'è? Ma certo, gli dici che sono cornuto, è tua sorella? Le fregnacce se pagano. Che vorresti dire? Dico solo che uno, o una, prima di sposarsi ci dovrebbe pensare no due, ma 200 volte! Noi se volevo bene, non è colpa nostra se te non fai l'amore con nessuna. Io prima di far fregnacce mi voglio fare una posizione. Che vorresti dire? Dico che hai ingravidato mia sorella, che vi siete sposati con le pezze al culo, che ti sei piazzato qui dentro, che hai fregato il letto a mia zia e che ci hanno pure sequestrato il furgoncino. No, dico tanto per essere chiari, Ah, è questo che pensi, eh? non gli dici niente. Ammasse quanto so dure ste moscerelle. Tra un po' vado da mia madre. Mi ha detto che mi metteva da parte il litro di latte e un po' di zucchero. Il zucchero? Il zucchero è per Bianca, Sorca, costa 90 lire al chilo il zucchero. Vabbè, ma che ho detto? Forse per i medium toscano. Magari, E forse un po' di lana per la sorana e forse un bel tocco di sapone per la sora Camilla. Ah, forse. C'è mo Babbo Natale. Almeno lui ci prova a darsi da fa. Che vorresti dire? Io dico solo che ognuno deve fare la parte sua. Beh, che vorresti dire, Bianca? Che io faccio un cazzo! O stai a di te? Ma ne devo andare a sta casa io. Oh, e che? Ma manco tua sorella devo di niente. Oh, ah sì, te ci mette pure te, mo. A stozza, io ma la so sempre guadagnata da solo. Tanto per essere chiari. Non mi va a far manovale, beh, l'ho fatta e non mi piace, ma perché? Non può essere. E mica sei scemo. E non so scemo, no. Ci stanno 2000 mestieri. Ma mi devo mettere a fare per forza il manovale. Roba che a papà non gli sta manco bene come gli passo i mattoni. Io il manovale a papà non glielo faccio, avete capito? Chiuso il discorso. Se mette male, stanno a restare i carabinieri. Ho incontrato il principale, gli hanno detto che stamattina hanno fatto un rastrellamento. Pare che gli stanno a più a tutti. E mi ha detto che alle fornaci hanno portato via l'operaio. Qualcuno ha sentito dire che li portano a lavorare in Germania. Madonna! E il peggio è che mi ha detto che il cantiere chiude. Da domani non si lavora più. Se mette male, st'inverno ce lo ricorderemo. Non si ciancicano mica ste moscerelle. Oh, e che sono sti botti? Si sentono da strada? E che te, no? Che si rompe i coglioni. Porella, ho svegliato il pupo. Sono 12 ore che dormi. Un freschetto stamattina, stiamo a ottobre. Non mi devi spiegare perché non posso dormire. E chi ti viene andato a dormire? Io ho solo paura che m'entri in coma. Sto a ridere. Mi pareva la tosse. Che erano quei botti? Tieni, eccotene un altro, va. Che è successo, Sor Leo? E che è successo, re? Che tanto per fare una cosa nuova c'hai le fregne stamattina. Che è stata aggiustare le scarpe? Era così per dire, eh? Va a sapere, re, tanto. Tanto che? So 200 volte che ho fatto sto discorso. Ci siamo? È mai possibile che due giovanotti come voi siete andati a svegliare 10 di mattina? Ma perché? Che te pensi che fanno i carcerati, eh? E noi non siamo carcerati. Non ci provate con me, caro, non ci provate. Mi pare vero che sta a panza all'aria dalla mattina alla sera. Io all'età vostra ero già apprendista attaccacarce. Lo vuoi dire? Ma che ci fa con qua? Ah, Sor Leo, ma davvero che Remo, quello che non riesco a capire è come fate a stare senza pancazzo tutto giù. Ma che potremo fare, Sor Leo? Di scienze voi ciccio, lo sapete pure voi. Avete sentito, Sor Carlo, gli hanno pizzicato Davide lo stracciarolo. Ah, ci sta bene a quel boiaccia del giudio. Se te pizzicano, te sbattono in Germania e buonanotte al secchio. Ma io non ci ho pensato, io di inventarmi qualcosa. Ma mo c'ho pure una responsabilità, no, mi capite? No, tu mi devi spiegare che responsabilità c'hai mai avuta. Gli hai dato mai da mangiare a tua moglie? Me devi spiegare che responsabilità c'hai! Ma così mi offendete però, eh? Ma che l'ho dichiarata io la guerra? No, te da solo. Insieme. Insieme abbiamo dichiarato la guerra. Il sottoscritto e compagnia cantante. Che avete fatto? Ma papà, noi siamo stati, no? Noi siamo stati a far chiudere il cantiere. Noi andiamo in giro a fucilare la gente, a fare la borsa nera. Pure la borsa nera. Ah, papà! Ammazza che più di una mignotta così. Ma non ci facevo mica. Noi ci siamo fregati i pomidori. Batti, batti, papà. Così ti metti ancora in pace. Solo te te vergogni, eh? Solo a te te del culo di stare i casco di Bianca, mamma e zia Anna. Noi no, noi dormimo. Certo. E che ce frega a noi? Ma io dormo per non pensare, che se no qualche fregnaccia già l'avevo fatta. E vedrai se non la faccio qualche fregnaccia, papà, perché io non gliela faccio più. Hai capito? Sì o no che non gliela faccio più di sta chiuso qui dentro a aspettare. E poi che devo aspettare? Che qualcuno si decida a darci l'ora d'aria? T'avevo detto di rimbianca a casa, visto che dovevamo stare chiusi qua dentro. Col cazzo! Eh certo, è meglio a far filosofo, no? A voglia si è meglio. A Candido, queste sono chiacchiere. Ah, sono chiacchiere. E dopo che abbiamo imbiancato casa, papà, abbiamo risolto. E certo, questo ma meglio chiusi dentro. E il fatto te lo dico io, qual è? Il fatto è che siamo viacchi. Siamo tre viacchi. E se sarebbero tutti come noi, ci stiamo chiusi a vita qua dentro. Ma non so tutti come noi, per fortuna, non so tutti come noi. E si tre chi sono? Io, Rem e tu, figlio. Oh, e bisogna che tu, Rem, il suo vizio, ti parla sempre per tutti e compagnia cantando, ma parla per te, no? Tu mo mi devi spiegare che pensi di aver dimostrato questa sceneggiata che hai fatto. No, niente. Ho detto le solite quattro fregnacce. Ah, mo sì che andavo d'accordo. E io che? Te che? No, hai detto che siete tre vigliacchi. E io? Oh, e che... Shhh. Come shh? Ma questa è tutta zozza, che è? Oh, e che... papà, shh. Come papà, shh? Ma me? Oh, farina, oh. Farina. Ah, vedi? Ah, farina, forse è tutta... Ah, vedi? Vabbè, ma... Insomma, che cosa parla, no? Che l'hai detto? Che no, shh. Oh, ma se non sapevi! Tu non strilla, parla piano! Ma perché? Sta a dormire. Ma chi? Stai a strillare come un'aquila! Insomma, se posso sapere o no! Ammazzate che cavocciole che sei! Oh, e mo chi è questo? Ammazza, quanto strilla! Oh. Guarda com'è incazzato! Quanto è il cavuccio! Oh, ma niente, niente! Aremo, ma so dei quattro mesi! Vabbè, ma allora chi era? Insomma, ma me vuoi spiegare, ma che è questa cosa? E beh. Eravamo scese con mamma giù a Roma. Ah, Sora Rosa ci aveva detto che stamattina a Campo dei Fiori c'era uno che vendeva olio e zucchero. Allora siamo uscite che era ancora scuro, voi dormivate. Ecco, mamma devi far pesare. No, papà, ma guarda che era. A parte il fatto che non dormivo manco per niente, perché vi ho sentito benissimo quando siete uscite, ma che te credi? Ma falla parlando? C'è sta un ragazzino della falla parlare, ma che ce frega, a noi si è risveglio a dormire. Tu puoi proprio litigare oggi! Insomma, lo volete sapere? Dai, è da retta a quello, forza, parla, parla. Insomma, arrivamo a Campo dei Fiori, che erano le 6:30, su per giù. Noi pensavamo d'essere prime. Era già pieno di gente, donne, vecchi e pure parecchi ragazzini. Aspetta, aspetta. Non si vede nessuno. Aspetta, aspetta. Niente. Aspetta, aspetta. Insomma, volete sapere sì o no? Sì, abbiamo, insomma. Ma insomma, ve lo racconto bene, no? Insomma, aspetta, aspetta quello dell'olio. Ma vattene. A un certo punto arriva un ragazzino de corsa e che ci fa... Hanno assaltato il forno dell'Argo Arenula! E c'è sta un mucchio di farina! Hanno assaltato il forno dell'Argo Arenula! Allora noi allo che famo? Tutti quanti all'Argo Arenula! Bravo, tutti all'Argo Arenula! Chi strillava, chi urlava, che avevano sfondato il portone del forno e stavano a buttare per strada tutti i sacchi di farina! Con mamma se guardiamo allora se buttiamo in mezzo pure noi! Oh, non ci ho capito! E chi tirava e chi spigneva? Mamma mi fa scanse di abbia perché è pericoloso, E certo, Bia, che è pericoloso! Pure te la butta a mezzo con ragazzi con panza e compagnia cantando! Ma mi sono scansata subito, Arema! Ma ci devi stare attenta, Bia! Arema, è un quarto d'ora che stiamo a larga, Arenula! Ma mettete pure a piedi su lei! Quando cazzo ci arriviamo, ragazzino! Vabbè, vabbè, ho capito, va! E il ragazzino è ebreo, l'avevamo trovato al ghetto! Beh, tutto qua. Ci avete prescia, no? Ma come? Ci mancava solo un giudio dentro a sta casa. Che c'è? Che significa abbiamo trovato al ghetto? Ma no, ma ci devi spiegare, no? A Candido, state zitto e falla parlare. Dai, a papà, spiega piano piano tutto quanto, dai, dall'inizio, dai. Mentre stavamo a riempicce le parannanze di farina, dal Lungotevere, incominciano a arrivare i camion dei tedeschi. Ma tanti, eh? non finivano più. E si fermano proprio tutto intorno al ghetto. Poi si sente strillare in tedesco qualche cosa. E allora coi fucili, coi mitra, i soldati entrano nel ghetto. Si sente qualche sparo. Noi lì come baccalà, tutti infarinati a guardare. Dopo un po' incominciano a uscire dal ghetto donne e uomini, ragazzini, vecchi. I soldati li fanno salire sui camion. E chi strilla, chi piagna, aiutateci, facevano. Ma noi che potevamo fare? Insomma, continua a uscire gente. Li ammucchiano sui camion come sarde. E noi eravamo lì, vicine. Una donna guarda mamma, piagne e gli fa: signora, signora, siete mamma pure voi! Signora, aiutatemi! E piate sto biglietto, signore, leggetelo, leggetelo, aiutatemi! Io mi raccomando a voi, grazie, grazie, signor! E il Signore è uno, per me e per voi, ve ne renderà merito! Fa appena il tempo a tirare un foglietto tutto ciancicato, che la sbattono sul camion insieme all'altri, e non la vedemo più. Sente solo strillare: leggetelo, signore, leggetelo! Allora mamma raccoglie il foglietto. C'è scritto: via dei falegnami numero 6, spizzichino, dentro al cesto dei vimini, sotto al lavandino. Se guardammo con mamma, ma che vorrà dire? Allora aspettiamo. Una, due ore, i soldati se ne vanno via, coi camion e tutto. E io e mamma entriamo nel ghetto. Una strizza, oh! Non c'era più nessuno. Tutte le porte spalancate. S'avviamo verso l'indirizzo. Due soldati tedeschi coi mitra ci separano davanti, ci puntano i mitra contro. Ma per fortuna uno dei due qualche parola d'italiano la capisce. Noi no ebrei, e noi no ebrei, noi venire qui a comprare stoffa. Noi no ebrei. Allora quello che capisce qualche parola d'italiano ci dice: d'andà via. Noi stavamo per andarsene. Quando svoltammo l'angolo e vedemmo la targa: via dei falegnami. Il numero 6 era proprio là, 7-8 metri. E imboccamo dentro. No, voi due ce l'avete tutte, eh? Salimmo le scale e incominciamo a guardare tutti i nomi sulle porte. Spizzichino. Ce ne stavano 7 del spizzichino al numero 6. Allora incominciamo a guardare sotto i lavandini, al quarto spizzichino, sotto al lavandino, vedemo il cesto dei vimini, guardamo. Due camicie zozze. Beh, se guardiamo con mamma, riguardiamo il cesto. E le camicie si muovono. Oddio, che è? E che c'è il ragazzino? Mi sembrava il bambinello dell'Araceli. Mettete la sete. Perché? Perché è meglio. Insomma, se posso sapere. Mettete a sete, io. Beh, ma che è sto fagotto? Un'altra sorpresa. Andiamo bene. Io voglio sapere che dovevo fare con sto ragazzino. Allora tu ci puoi mettere a sete. No, io non me ci voglio mettere a sete. Io voglio prima sapere. Bianca, via l'aceto. Che ce devi fare con l'aceto? Ce devi condire ragazzino. Che è? Che è? Metteglielo sotto il naso. Me coglioni. Cazzarola. Che? Don. L'avete presi. Avevo stavo per di. Avevo detto no, che mi sembrava il bambinello dell'Araceli. E ce l'avevo addosso il pupo. Che state a fare? Ma che siete matti? Sei sola? Sì, Leo, ma che non vedi? Sei sicura che non ti è venuto appresso nessuno? Ma capi, ma che domande mi fai? Candido, controlla la finestra. Sì. Non mi volete... Shhh! Allora? Pare che ci sta nessuno. Sicuro? Oh, e mica so quello. Scansate. E mo, che? Oh, mo ti metti pure a zagaiare. Oh, l'emozione è stata da tanta, eh. Ah, andiamo proprio bene. Chi è? Ma chi è sta creatura? sto ragazzino qui dentro non c'è può restare. Se Dio vuole è vivo. Ammazza, oh, è un cazzo e tiro, ma senti che roba. Ah, ridi, puzzolente che sei. Arre, guarda quanto è caduto. Oh, stai simpatico, cara. E buci, buci, buci, buci. Buci, ridi, E buci, buci, dai. Buci. Che ti fa, Candido, Che ti fa dei parini? Sto fa scherzone. Oh, mica giocherello, Sì, ti ha fatto paura quel brutto. Dimmo così stiamo io. Certo. Dai, per buci, buci. Buci, e questo chi è? Eremo? Eremo questo? Oh! Eremo, che gli sbadigli in faccia? È la natura, se mette paura, no? Ti apri per forza. Ma non ci ho pensato. Staci attento, là. Andatevene su, su. Che gli mettete paura, lo cambiamo. Su. È arrivato buci, buci. Ma chi t'ha imparato a parlare con i ragazzini? E me ne sa accorto! Sarà stato il vino! Come il vino? Nonno ieri sera gli ha fatto assaggiare. No! Ma dico io, gli avete dato il vino! E per forza che ci ha sciolto! Ma gli ho dato il cupo mio! Ma come sarebbe gli ha fatto assaggiare il vino? Ma che siete impazziti, è una creatura! Beh, ma gli piaceva, te dico! Ma Sorleo, qua tocca via provvedimenti, quando nasce mi vivo. Ma chiacciamela al posto del cervello, guarda papà, tanto, ma te gli fa vedere vino. Oh, ma gli ha intintoso il dito, che sarà male? Guarda là, papà, dove sta? Che ne so. Dove non sta tuo padre? Dove sta? Si è arrampicato sul figo. No, vabbè, mo vado a prendere perché mi sono stufato. Ma dove va? Vabbè, ma stavolta. Sì, ci manca solo che te farete, che qualcuno fa la spia, che te viene e te sbattono in Germania. Beh, non è meglio, qui altro che Germania. Chi è? È vero, sta sul figo. Sta a ride. No, no. Non ci sta proprio più coi sentimenti. Vedrai se un giorno di questi mi casca giù. E buonanotte al secchio. Avete rimediato qualcosa? Poca roba. E il latte e il zucchero, sì. Oh, vabbè che è una creatura, ma qualche cosa dovremmo mangiare pure noi. Io mi sto indebolì troppo. La mattina, quando marzo, mi gira la capoccia. E te credo che te gira. L'hai sformato quel letto. Vedi, l'uomo non può campare sdraiato. Le gambe servono per star in piedi. Tu invece le usi solo per alzarti, andare al tavolo, mangiare, a ritornare al materasso e rimettere in forma. Ma dovevo da ridere? C'è bisogno. E il pupo? C'ha la sciorta. Da quando sei uscita ho già cambiato due volte, mo sta con Anna. Ma pure la sciorta? Hai capito, sì. Oh, e la catenina? E l'è rimasta in Parmo e l'ho dovuta da tre dita per un litro di latte e mezzo chilo di zucchero. Sciloro. Per noi? Gli ha anche rimediato un po' di lardo e qualche patata. Ah. Ma ce farà male tutta sta roba? Oh, io dico, sarà una chilata d'oro. Siamo tutti quanti fame. Io ci scommetto che se la mamma del pupo lo saprebbe, non ci troverebbe niente di male. Ma mica dico tanto, che ne so, un braccialetto, una catenina, quanto farà? Una decina d'ora, un po' di pasta. Ah, ma io non me lo ricordo più il sapore del piatto di pasta. L'ora del pupo non si tocca, chiuso il discorso. Lati piano, che si è addormito. Anzi, che qua, ci sono annata e ti manda sto biglietto. Grazie. Beh, che so tutti sti segreti, perché balla dietro a leggere il biglietto? De chi è? Amaio, lo posso dire? Che sarebbe Amaio, lo posso dire? Sarò il padrone di casa o no? Diglielo. Ecco, c'è un permesso. È un carabiniere, è nascosto in parrocchia, gli fa la corte. Dai, sta messa lena. Stavo a pensare una cosa. Che? E dici sto a pensare, parla, se no... No, dovessimo da trovare nome al pupo. Mica si può continuare a chiamarlo bello di sopra, bello di sotto. Poi voi lo pensate chiamasse bello di nome. Ma c'ha ragione. E come lo chiamiamo? E che mi guardi a me? Ho tagliato un po' dei rami secchi, sono buoni per far fuoco. Che è? Ma ho io un tinto solo il dito, ad a vedere come succiava. E gagliato quel pupo. Guarda, guarda, guarda, bello. Oh, a me non mi viene più mente niente, ne avevo detti 2000. Ma chissà qua la poveraccia della mamma sua come l'avrebbe chiamato. Beh, un nome brano glielo potremmo dare sicuro, con sti chiari di luna. Per me è meglio rimane Bruno. Vi è bene. Ah, Bruno! Ma che non lo senti, è il suo. Ci è rimesso un goccetto di vino? E mo' vedremo. Papà, a te che nome ti piacerebbe? Ah, no. Sì. E non è mica facile. No. Ma però manco è difficile. Perché il problema... Il problema non è averci un bel nome, il problema è saperlo portare un nome. Come a dire che so, per esempio, no? Camilla. Camilla a me fa ridere. Quando Leone mi ha detto che faceva amore con una che si chiamava Camilla, io mi sono messa a ridere. Poi ho conosciuta. E mo a me Camilla non mi fa ridere per niente. Perché? Perché c'ha i pironi. I pironi! È una forte, capito? No, poi io sbaglio già ho fatto. Piate Leone. Che sbaglio? Ma sì, perché quando sei nato eri così pacioccone. T'attaccavi a sinna di mamma tua, ciucciavi e t'appennicavi. Poi ti svegliavi e l'unica preoccupazione era di ritrovarsi. Allora abbiamo pensato, mettemi almeno un nome Gagliardo a questo, perché se no ci vesti un po' troppo bambacioni. E infatti. Perché? Che vorresti dire? Che sembra uomo. Un fragnone! No. Certo non sei uno che mozzica, no? Sei un lavoratore, un uomo di casa, un bravo uomo, come siamo noi. Insomma, io voglio dire che un nome vale un altro. Chi conta sei te, chi sei, che fai? E allora è inutile che mi è stato a spremere il cervello. Per il cassino, per esempio, già si vede. Per il cassino lì potete mettere qualsiasi nome. Con quelli così che nascono con le pregne non ti sbagli mai. Poi adesso io mi vado a fumare sto mozzicone di sigaro in camera mia, se no va a puzzolentisco tutta casa. Aio, sei un bravo e non è poco di sti tempi. E datemi retta, non versate a sprete che al puro voglio sempre. Bruno, datemi retta una volta. A me non è che mi piace tanto, A te pensa per tuo, no? Certo. Noi già ce lo sapevo. Si è maschio Giovanni e si è femmina Elisa. E perché? Perché ci piace, no? Ciò potevate pure dire. Ma ci hanno ragione, Leo, hanno scelto. Ma tu lo vedi che per mettersi d'accordo è uno, figurate due. Ma è diverso perché il pupo dell'A è il figlio un po' di tutti. È giusto che lo decidiamo insieme. Però al nostro ci pensiamo io e Remo, il padre e la madre. Ce fa una grinza. Pare un angioletto. Chiamiamolo Angelo, no? Meglio di no. C'è un atto speciale per farlo svegliare, Remo. Non mica lo faccio apposta. Credo che si è addormito. Stiamo a dormire pure noi. Ah, oh, sì, ma quante ne sai? Ogni giorno una nuova. Ma che te impari? Ah, ma che ci cantavi te, eh? Sì, a te ci mancava solo la ninna nera. Beh, però sì, bisogna che me ne impari, eh? Certo che te le imparo. Domani la Sora Rosa me ne impara un'altra e due. T'addormi, che una bellezza, eh? Come sarebbe sta storia del carabiniere? È un brav'uomo. E mozzica come papà. E niscosto in parrocchia. Ha fatto in tempo a salvarsi pelo pelo. Un altro po' se lo caricano, se lo portano via pure a lui. Si chiama Efisio. Come si chiama? Efisio. E Sardegnalo. Annalè, a te se non so strani, te piace, no? Ma perché? Un barbiere e un carabiniere, perché devono da essere strani? E te l'unici normali sono i muratori. Se c'hanno il cappello di carta in testa, non sono sporchi di calce, non sono normali. Capì? Poi so io che stuzzico, eh? Si fa da conta. Oh, a me la divisa del carabiniere mi è sempre piaciuta, che strisce rossa, la saccoccetta nera e compagnia cantando. Vabbè, Arema, mo che c'entra? Era così per dire, eh? Oh, fatemi dire qualcosa pure a me ogni tanto. E ci fai l'amore? Eh? Col carabiniere ci fai l'amore? Mi viene appresso. Ma l'ha detto che sta nascosto in parrocchia, come fa a venire appresso? Ma che te ridi? Sto a parlare sul serio. Vabbè, ma fammi capire che tipo è, se ti piace, quanti anni c'ha? Ce l'hanno più di me. È vedovo pure lui? No, è scapolo. E come mai? Ma perché non può essere? Beh, vabbè, mi direi che sarà strano, uno che ha 49 anni e ancora scapolo. Ma perché? Che male c'è? Ma non sto a dire che c'è il male, dico solo che... Oh, Aleo! Io non lo so più, eh. Ma che, ragazzi? E mo ci sta pure sto ragazzino. Beh, io... Io invece sono affezionata. E allora? Aleo, io non lo so più, boh. Ogni volta succede qualcosa. Sì, l'altra volta la gallina. Mostro ragazzino. E se vede che non mi devo da risposare, ecco. Oh, questi sono segni, eh. Se vede che è Pietro mio che non vuole. Ma che stai a dì? Agami. E io... A sto ragazzino gli voglio già bene. Beh, sì, ho capito, ma non... Ma perché non lo chiamiamo Carlo? Come il so Carlo? Oh, sai quanto è contento? Poi io non si esprimemo e gli famo un bel regalo. Ma Carlo gli è bene con tutto, ormai ce lo sapevo, no? Sorca per quando è vecchio. Aga, se non te vuoi spregare. A Carli, oh, gli è bene con tutto. A me mi sta bene. Bravo, Remo! Ma sì, famo contento, nonno, eh. Bravo, Remo. Carlo. È un bel nome. Leo, e te che dici? Come ha detto papà, il pupetto è nato con le fregne. Ma per forza, così piccolo e già così ghiellato. Si strilla a quel modo, vuol dire che sarà bella, che non ce lo sta. Per questo gli piace a papà. Ma devo dire che mi piace pure a me. Se uno si deve incazzare, si deve incazzare subito, dopo è tardi, ne passa la voglia. Dopo che vuoi mozzicare, se non l'hai mai fatto. Sì, Carlo, Carlo mi sta bene. E andiamo a di allora. Ma sì, andiamo a di, forza. Papà, papà, avessimo deciso. Papà. Ah, papà, Casorio, e dimmi io più tardi. No? Ammazza, dorme come un sergio. Ma per me sa che ci ha sentito. Sì. Ma sì, prima quando stavamo a discutere. Ah, sì. Ma non lo vedi? Non lo vedi che dorme ride? È vero. Ci ha proprio sentito. Ma poi non sta a ridere. Che devo dire. Ah. Eh sì, il nome suo è proprio Carlo. No, bello, non è niente, è bello. Ma papà, andiamo a svegliare. Dindo, dindo, dindo,